sempre lamentandoti, sai, carissimo, sempre freddo c'è. C'è qualcuno su 10? Ciao Roberto! Chi sei? Antonio sono! Ma non c'è a casa tua, Antu? No, è cattivo! Infatti ho visto questo picco di segnale, cavolo è certo! Ma che forte d'arrivo! 9.45, sì! Ah, va bene! E anche io penso che ti arrivi discretamente, eh? Non so, sì! Adesso faccio una prova, aspetta due secondi! Guarda, Roberto, come sono adesso? Come se avessi abbassato poco a poco! Abbassato poco a poco! Sei un po' più basso di prima! Aspetta, ma più saturata la modulazione? No, la modulazione va bene, chiara, pulita! Aspetta che proviamo, lo rimetto come la prima! Ci sono spagnoli, c'è propagazione comunque! Hola? Hola, già sto uscendo, sì! Sì, sì! Così va meglio, no? Ma io non ho visto niente di diverso. No, il segnale è talmente forte, quasi non si vede la differenza. Non credo, Roberto. Beh, sta bene. Sì, ma forse ti abbiamo visto sotto casa mia in moto, con motocarro. Ne abbiamo un motocarro noi. Ah, forse non fossi tu, perché c'è un motocarro, c'è un altro nel baracchino. No, chi c'è accorto, sono 45 MHz, guarda. Sono quelli viaturati. Non lo so, pensavo fosse roba vostra. No, negativo. No, non ne abbiamo noi, no. Ne abbiamo solo qua. Ma l'antenna è la tua, tutto tuo è dove sta lavorando. Allora. Ma lo usi solo tu o c'è anche tuo padre? Non c'è papà. Ma scusate, tu ce l'hai solo quando sei fermo di lì, il baracchino? Sì, ce l'ho solo quando sono fermo qua, se devo uscire non ce l'ho. Ah, per cui il moto non ce l'hai tu per comunicare? Ah, lì ci vuole, quando sono consegne ci vuole un po' di... bisogna la testa lì, no? Non posso stare a parlare, finché è qua, ok, se non c'è niente, però se c'è lavoro devo uscire a fare, basta. E se no diventerà troppo complicato, Roberto. Ma un periodo ce li avevate voi nel motocarro, non mi sbaglio, che torniamo, mi passa pure a regalare una bombola a quello, prendi quello, un periodo possibile, non mi ricordo male. Noi no. Voi non l'avete mai avuto? Negativo. Eppure ero convintissimo che anche voi ce l'avevate. Per comodità adesso vabbè ci sono i cellulari, ti chiama, dicevo passa anche in via a caso, poi mica se sennò passa in via Le Caprera, adesso diciamo è un cellulare così. Sì, no, quello sì. Quelli che ce l'hanno è perché hanno quelle frequenze tipo da siti di Navucca, finalmente. Sì, ho capito. Ma oggi cos'è? Poco è andato il giro, adesso perché è tardi non è consegnata a quest'ora. Cioè, consegniamo, ma sto scherzando, fino alle 7:30. È un po' così, un po' di caldino, c'è me. Magari un po' la giornata pure. Ma no, vabbè, se già... Se esco, già andiamo. Non c'è problema, tanto le 7:30 siamo operativi. Cappa, ma aumentata la bombola con questo fatto della guerra? Sì, ha aumentato 3-4 volte, non c'è. Cioè, due volte, ma... Quella 10 adesso quanto costa? E quella da 15 anche tu? È già qua, quella da 10 costa 24,50, quella da 15 36. Venendo a prendermela io. Sì. Già sei giunto più di una volta. Sì. No, a me prima già stato a contatto col personaggio, ci ha fregato per tanti anni, ma minimo 10 anni. E poi alla fine una volta non c'era la bomba, adesso sono andato da mafia, questa va in mare 10.000 lire di meno, non ti faccio nome e cognome, ma già con le immagini, le amiche. E mi trovi a Romonte, a Vato, Rubetti, si passeggia in occhio. Vabbè, poverino, per certi versi diciamo poverino, perché faceva giochetti strani, dai, faceva altri vizi ci aveva. Sì, te lo conosciamo, già lo conoscimmo. Vabbè, ci avremmo discorso. Non c'è nessuno qua su questo canale? Quando sono entrato io no, Roberto. Che antenna che ti hai messo? L'ho vista là fuori, che antenna è tu? La Ringo. Cioè funziona bene, come funziona in lontananza? Bene, va. E a pompa, ya. Me l'ha regalata una persona, me l'ha regalata. Ma tu mi tieni, era un po' messa male, era. La prima volta che l'avevo messa mi sono cacciato. Ho visto lo strumento, ha cominciato le stazionarie a alzarsi, ha detto no che faccio tutto oggi, cioè, poi adesso l'ho sistemata, adesso devo metterle anche il grasso un po' perché entra un pochettino di acqua quando piove, l'ho vulcanizzata un po', però devo perfezionarla, però gli ho dovuto rifare tutto il coso nuovo, il coso dove c'è il PL, il filo nuovo, gli ho messo tutto, stazionario è zero quando è a posto, e pompa pure. Ma dimmi una cosa, che macchina è questa? Il? Intec, 550 power. Già bene che stecco, che chi non si comprende nulla, è già a forza la radio, non riesco a capire molte cose. Sì, così va bene. È già lungo, ho questo vizio di mettere, di sporcare le modulazioni, già non sei camionista che devi farti sentire da lontano, siamo in città, e guardate che esce bene e chiaro. Molte volte non riesco a capire quello che dice, perché arrivi talmente forte e rimomba tutto quanto. E io, adesso dovrebbe andare un po' meglio. Assolutamente, perfetta la radio. Che microfono c'hai? Suo, quello originale. Perfetta, chiara, pulita, senza disturbi. E che alimentatore sta utilizzando, Antu? Quello cinese. Quello del computer? Quello che vende cose, il cinese. Non va bene. Era un po' messo malino, era tutto pulito, tutto messo a posto. Funziona, gli ho lubrificato la ventola. E funziona. No, sei perfetto, pulito, manca a casa tua esci così bene certe volte, pulito, non c'è un disturbo, la radio perfetta. Me lo posso immaginare. No, a volte ci sentono, quando ci volte uscire i rumori di sottofondo, ronzigo, invece è perfetta, la radio è una telefonata. No, va bene. E questo cos'è, un Intec? Che modello è dell'Intec? Il 550 Power, ti ho detto. M150 Power. Il viraggio dei Zanni, viraggio. E era successo che ci hanno staccati dei fili dell'apparecchio, capito? Un pochettino. L'ho fatto vedere una persona, me l'ha messo a posto, me l'ha fatto in 448. E funziona bene, ma c'era un saccaccio di anni, ce l'ho. Funziona bene come la prima volta che l'abbiamo comparato, mi roba. Non sono presente come radio, ma c'è la valle laterale pure. No, oh, è normale, c'ha l'FM e basta. Tipo la 48, una cosa del genere. Sì, una cosa del genere. Mi ti mando la fotografia. Conosce benissimo, bella. E non è amplificato il microfono. No, è originale il suo. Sto dicendo, tanto non so se ti sei mai ascoltato, esce una bomba, pulito, perfetto. Sembra un microfono amplificato. Buono, non so, ci avrà qualche amplificatore dentro, qualcosa. Però funziona bene. No, ti sto dicendo, perfetto, la radio è zero, mi zero, 10. Ma è pulito, senza aiuto, sì. Negativo, non ne ho no di roba strana. Esatto, vabbè, siamo vicini, ma è una bomba, perfetto. Ok, e da casa tua hai provato come ti ascolti? C'era stato qualcuno che ti ha dato conto? Ho già l'ho provato con Sara. Ah no, dico qualcuno di lì del lavoro e tu a casa tua a vedere come sentivi. Già lo so, ho provato con Sara, arrivo anche forte, arrivo a casa, molto forte. Chi è quello che ti arriva più forte? Penso che adesso da qua sono io più forte. Tu e Antonello Bonponio, sì, e Claudio, i più forti in assoluto. Claudio, ma com'è Claudio? Claudio è un po' lontano, cioè perché Fabrizio deve arrivare a bomba. Sì, se si fa vedere Fabrizio, no, che cazzo mi incolla tutto. Fabrizio c'ha un'ottima posizione, bello anche. Ti sono arrivato un messaggio? Ti ho mandato l'apparecchio, ti ho mandato. Aspetta, guarda. Sì, già lo conosco, sì. Ah, è carino, va bene. L'avevo comprato a Milano da Coso. Da quello che vendeva, come cavolo si chiama adesso, non mi ricordo. comunque c'è anche l'eco fisso del tastino, ma regolabile o fisso l'eco? No, è fisso, e quello fa un altro servizio pure. No, è bellino, è carino, tipo un araquanato sto più bellino quello dell'araquanato, a me l'araquanato sto, l'unica cosa c'è di buono che si può modificare, ci sono una marea di modificarlo ed è facile ed esce bene, ma non mi parlare di ricezione che è una grande cagata l'araquanato. Io sono un nuovo fiammante mio, l'hanno regalato diciamo una settimana di vita e l'ho usato qualche volta, esce benissimo come eco, però di ricezione mi dà un po' di splatter. Sì, se no poi io che non ne comprate più nulla. No, infatti l'ho messo di lì, però è scomodo, c'ha questo cambio canale duro, non mi piace. C'è un altro piccolino, l'Alan 48 Plus, cioè piccolino, che mi ha dato Salvatore Mazzani, nuovo, lo stesso, l'ho comprato e poi me l'ha regalato perché tanto poi è partito, sarà tenuto nel furgone, ma nuovo, piccolino, nel camper, l'avevo messo, poi non l'ho manco più piazzato. Ecco un attimo che è entrato un cliente. Ciappa. Attenzione al canale 10 se c'è qualcuno che vuole entrare qua. Ora? Già sta uscendo questo giocattolo. Sto giocando, c'è qualcuno? Robè! Aspetta che mi hanno chiamato, scusa. Cosa Robè? Mi hanno chiamato un attimino, ci sentiamo dopo quanto. Sì, ok. C'è qualcuno? Hola, c'è qualcuno su 10 avanti? Hola. CQ10, c'è qualcuno? Tutti orecchie di porco sono. Attenzione 10. Una trappola è caccia. Scala. Comunque mi chiedo una cosa più, la vedi tu, c'è vita carbonara, Alla settimana scorsa. Allora, ha preso la patente nel 74 ed è stato attivo sino alla fine degli anni 70. Dopodiché ha fatto un po' di attività d'estate, cosa ti posso dire, dal 2005 al 2000, al 2010, e poi sta riprendendo adesso, quindi comunque molto, molto, diciamo, saltuariamente. Lei ha preferito stare in mare, io ho preferito dormire. Siamo a pari. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Come... qualcuno qua. Uno, due, tre, prova. CQ10. Andalino Pocomane. Io ne ho tre di quelli, se è quello che conosco io, quindi dovrebbe essere un disastro, invece non lo è. Ci vuole un po' di pazienza. Sì, un po' di pazienza, cioè tasti difettosi. Qui lo cambi. Bisogna aprirlo e vedere cosa c'è che non va. Sì. No, dovrebbe, cioè vabbè, certo c'è anche la piastra, sto quanto, ma insomma, è fattibile. Poi se non è proprio bravo, al limite ti cambia proprio il tipo di pulsante, per me sono quelli robusti. Adesso questo qua bisogna premere un bel forte, se no non mette la portante. Probabilmente, però tu c'hai la mano pesante, Natali. Perché io ne ho tre, quindi se ce ne fosse stato un difetto di microfono a quest'ora l'avrebbero fatto anche loro, invece sono abbastanza tranquilli. Ma evidentemente era già così. Era già difettoso, dai. Guarda, allora, siccome ci sono quelli anche di sopra, non so se funzionano. A me non mi funzionano quelli CAL, VFO, memoria. Non ne stacchi uno da quelli, tanto dovrebbe essere tutti uguali. E ce lo metti dove c'è il PTT, molto ce lo vuole. No, qua funzionano, tutti funzionano. Ah, anche quelli CAL, VFO, MR, anche quelli. Tutti funzionano. No, forse non li ho collegati bene, ma non è che mi interessi avere il CADA, avere il VFO, cioè è tutto automatico, quindi. Qua funziona tutto, solo che sono difettosi quelli grandi per il PTT e il LUC. e ho camminato lì, tanto costa poco, quanto costa, su quello te ne danno mezzo quintale a 20 centesimi credo. Perché sono molto furti da schiacciare, chissà cosa mala sorte gli ha preso. Ma sono tutti così o sono solo quelli? No, questi che uso, il PTT e il LOC. Si possono cambiare, si possono mettere, si possono fare tante cose, tanto oramai ci sono anche i microinterruttori piatti, ce ne metti due magnetici, insomma si può fare tanta cosa, ecco. Lo so, voglia ci vuole di fare, cosa ti volevo dire? Ieri non mi si è rotto il portafusibile, adesso mi tocca andare a comprare un portafusibile nuovo del coso, dell'alimentazione del 3009, non chiude più, si è rotta l'aletta, ma così mi da solo, boh. No, ho capito cosa si è rotto. Il portafusibile dell'alimentazione del 3009. Il portafusibile. Vabbè, qualche pezzo di recupero non ce l'hai. Tanto ci metti qualunque cosa lì, non è che tanto lungo il cavetto. Lo so, ma non ne ho pezzi di recupero. Bisogna comprarli nuovi, un paio. Di quelli. Di quelli lì, lo metti e fai due saldature, sei a posto, no? Quello non è un problema, Natalie, dai. Se iniziano a essere problemi quelli, allora ci dobbiamo preoccupare. E il tempo ci vuole, poi io temo a togliermi la macchina da qua. Capito? Temo a togliermi la macchina perché sennò poi non trovi il parcheggio, un macello è qua. Lo so, Natalie, però quelli sono problemi di altro genere, ecco, non è che ci puoi fare niente lì. E infatti. Adesso vado e me li compro due di quelli buoni e ce li avevo, magari sono in campagna. Ne avevo di roba, ma si attaccano con le viti, tazza, due colpi del fatto. Questo qui si è rotta l'aletta proprio, che lo chiude, non chiude il portafusibile. Certo. Quelli lì, ricordare la in qualche attività, se non c'è un minimo di buona volontà a fare le cose, poi inizi a non far questo, a non far quell'altro e si degrada tutto. E infatti adesso vado e me li compro e via, un paio per averne uno di riserva.